lo possiamo dire in qualche modo che Roberta Giallo è la madrina del coxo? Loro non lo sentono. Ha detto Federa che Roberta Giallo è la madrina del coxo. Possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Grazie. No, lo chiedo io, Roberta, ce lo dici? Lo dico io. Roberta Giallo è la madrina del coxo. Ecco, ci farò una gif con gif. Ti prego, poi passacela, così che anche il nostro Facebook possa avere un po' di un'esplosione. Io vorrei che tu ci facessi un nuovo jingle, così a cappella, adesso, al volo. Un gigolo adesso? Sì, coxo spaziale. Allora tolgo la musica di sottofondo, allora, così poi lo prendi. Potrebbe essere tipo... Tolgo la musica di sottofondo. Mi viene quasi da scoppiazzare, però lo dico, io non copio mai nessuno, ma questa ci starebbe proprio... No, perché c'era coxo, qui sarebbe... Coxo. Che poi anche questo cox non è male, questo secondo me la vogliamo. Spaziale. Chiede Gifo la voltolina dov'è? La voltolina sta studiando per un suo podcast. Io se fossi in me, io stasera farei un recap per tutti quelli che hanno sempre ascoltato Radio Città Fujiko alle 7 di sera di lunedì e non sanno chi siamo. Dai, che cosa facciamo. Lo facciamo dire alla nostra madrina? La madrina del coxo? Io devo dire tu? Cosa voi fate in questa... Esatto. Allora, metto la diretta Instagram per essere su tutto. Esatto, metti la diretta Instagram. Allora, per chi non lo sapesse, ragazzi, voi che ci ascoltate da caso in macchina... So che sembra tutto ovvio, però non è, come dire, ovvio per chi ci ascolta sui social. Che cos'è coxo spaziale? Loro ancora non mi sentono. Comunque è la trasmissione radio più fica. C'è anche la K di Radio Fujiko che c'è nel bolognese. Stavo dicendo che coxo spaziale è la trasmissione più fica della radio più fica che c'è a Bologna, dell'internet bolognese. Basta, l'ho detto con la X e la K. Ma devo anche presentare l'unica radio libera rimasta, e devo anche presentare i miei follower. Ah, ecco, e così vi faccio diventare famosi. Ciao Pietro De Filippis, Stefano Pasquini, vedete che figo. Paglia Lunga Alberto, no, qui how you e doing? Al di là del vetro in regia la grande Fedra Boscaro, che per oggi non è troppo figa perché c'è il raffreddore e anche la febbre. Vabbè, ma guarda, da lontano da lontano me, l'effetto è sempre ultra. Diciamo hello to Cristiano Bianco, to Giulio, e quindi Michele Zanta, Pier Maria, e quindi per chi ci sta ascoltando adesso, che non so cosa stesse ascoltando le scorse settimane negli anni, non coxo spaziale, esatto, comunque. Coxo spaziale è un programma che si dedica, il cui sottotitolo recita l'arte come non l'avete mai. È un programma che si concentra su un ospite ad ogni puntata, nello specifico qui la meravigliosa e super mega galattica Roberta Giallo, che anche ci ha concesso di essere madrina del coxo, perché la conosciamo da anni ed è qui finalmente per aggiornarci su quello che ha fatto negli ultimi 365 giorni. Sì, anche se qui su Instagram non mi sentono, ma pazienza, mi sentirete a volte vedete un'immagine. Sì, io oggi vi dirò quello che ho fatto in questi 365 giorni. Sono stata un po' in giro, ma aspetto chiaramente le domande di Fedra, che saranno più specifiche, così da seguire anche la linea, insomma, la vostra linea della traduzione. La linea editoriale del coxo. Giusto, dico bene, caro Pasquin. Ecco. The questions of Fedra. Ecco. Anche in inglese. Tornando a monte, coxo spaziale si occupa quindi di arte e dintorni e ogni settimana propone di scavare i meandri e i confini della creatività attraverso l'opera di persone reali che agiscono nel bolognese, nell'Emilia Romagna, oppure che sono di qui e agiscono altrove. Dico bene, Pasqui? Che significa? Arte e dintorni. Che significa aschi in intorni? Sì. No, l'Islofunsk è islandese. Sì. Poi come potete ascoltare, Stefano Pasquini è specializzato nel Google Translate, esatto. In diretta. E sui jingle. È brutale anche sui jingle. Tipo questo. Questo carini, ma loro si perdono tutto, dovete sintonizzarmi su Radio Fujiko. Poi gli mandiamo il podcast. Poi ci sarà il podcast. Sì. E mi sa che il cappello introduttivo del coxo l'ho fatto. L'hai fatto? L'ho fatto o no? L'hai fatto. Poi è ora di mettere un pezzo di Roberta Giallo che non sentiamo da almeno qualche anno. Scusate, io sbattevo sul tavolo e la diretta ha fatto un po' allora, così. comunque stavi dicendo però che state per mettere no. facciamo una sorta di archeologia giallica. Dai. Sì, facciamo un'archeologia di questa grandissima e brillantissima cantautrice bolognese, artista. Grazie. Eclettica, che è qui per raccontarci tutti i debutti dell'anno scorso in corso. Loro non sentono tutti gli elogi che stai facendo, ma grazie. Cosa ascolteremo di mio, così loro se la vanno a ascoltare su Spotify nel frattempo? Io direi che potremmo andare dalle origini di quelli che c'ho qui, forse Via di Qua è il primissimo. Dalle potrebbe origini, essere Via di Qua, se volete la cercate adesso su Spotify, perché voi non sentite quello che io sento in cuffia. Ok, ma vado. Mettiamo una cuffia anche a loro, scusa. Si qua può fare? Sì, certo. Proviamoci. Intanto io però vado. A tra poco. Via di Qua. Bang bang bang bang bang bang bang bang ooh bang bang bang bang bang bang bang bang ooh pa pa di di da di ta ta di di di da di da pa pa di di da di ta ta di di di da di da pa pa di di da di di pa pa da pa pa di di da di di da da ooh no no no che non mi va di rinunciare alla mia libertà. No no no che non mi va di avere peli su questa bella lingua. No, no, no, che non mi va di essere schiava, padrona, cogliona. Poi, per che cosa, per chi? Io non voglio vincolini. No, no, no, che non mi va di ipotecare la mia libertà. No, no, no, che non mi va di uniformarmi alla mediocrità. No, no, no, che non mi va di definirmi, di dirmi con tre aggettivi chi o che cosa sono io. Se lo sa, lo sa solo Dio. E vado di qua e vado di qua di qua e vado di qua di qua tutto bang bang pa pa di di di da di ta ta di di di da di da pa pa di di di da di ta no, no, no, che non mi va di far l'amante o di far la bella sposa. No, no, no, che non mi va di essere santa o peccaminosa. No, no, no, che non mi va di raffinarmi, smussarmi, addolcirmi. Io sono questa qua, è così che mi va. Parole, suoni, libertà. A tutti i belli giovani e non sposati. E poi il contrario di tutto. Sì, poi il contrario di tutto. Chi ti ha detto, chi ti ha detto, chi ti ha detto che sei brutto? Chi ti ha detto, chi ti ha detto, chi ti ha detto che sei brutto? E vado di qua. E vado vado di qua di qua di qua. Si deve ammettere che vado. Beh, non lo so, quando uno dice sei fotogenico è un insulto. Ma noi donne c'è sempre quella paranoia. Beh, dici certo, sei fotogenico, perché dal vivo fa schifo. Allora, non diciamo come una gnocca. Gnocca è proprio il termine con cui si muove. Questo periodo di femminismo c'è chi si offende se ti parla di gnocche, ma gli gnocchi sono buoni da mangiare, appunto. Anche se non sono il mio piatto preferito, insomma. Siamo tornati in diretta. Nel pieno di un ambiente culturale che è veramente altosonante. No, veramente è difficile star dietro a tutti sti social anche, no? È difficile anche star dietro a Roberta Giallo, secondo me. Chissà, che dite voi? Difficile starmi dietro? Ma Cioè, no. Perché Stefano dici? Così? No, perché è molto spumeggiante in diretta, fa un sacco di roba e non si ferma mai. Di solito sei tu quello che spumeggia, ti senti un po'. No, io di solito dico, anzi, ti ricordi che l'orario più è presto e più. Ah, è vero, quindi avremo una. Sì. Una allora, beh, no, devi. Ma, allora, io adesso ho mezza febbre, tu okay. non mi spumeggi, no, no non possiamo far tutto. Spumeggiantissimo. No, io è la mia, come dire, esaltazione. Abbiamo chiamato Roberta Giallo apposta. È la mia esaltazione perché quando torno qua, siccome è un programma che mi piace, voi due siete divertenti, e mi diverto anch'io. Sì. E forse la prendo anche con troppa leggerezza, non lo so, dovrei essere. No, più no, no, no, no, sei perfetta. Ah. Non a Roberta caso. Roberta Giallo spumeggia. Spumeggia c'è questa è perfetto. No, a proposito di lingue straniere, però sto giro sono pertinenti perché fra le varie cose sì. che tu hai fatto negli ultimi 365 giorni c'è stato anche, beh, l'abbiamo detto, l'anno dei debutti, perché ci abbiamo anche avuto la prima tournée internazionale. Esatto. Che cosa dico internazionale? Intercontinentale, se non intergalattica. Esatto, anch'io finalmente posso riempirmi la bocca dicendo che sono reduce da un tour internazionale. Ma bensì ho toccato l'estremo oriente e lo estremo occidente e quindi adesso posso raccontarvi quello che ho fatto. No, sono stata davvero fortunata, ogni tanto accade, insomma, tra le tante sfighe della vita, ogni tanto qualche beh, fortuna allora, arriva. Chiamiamola fortuna o chiamiamola merito da un lato, è un grande lavoro di organizzazione da parte del tuo giusto. Manager. È vero, qui arrivano i complimenti in cuffia a me e al manager, sì, è stato insomma un lavoro importante. Che segue il debutto del tuo primo album tanto atteso. Esatto, tutto, L'oscurità di Guillaume. Tutto parte da quell'album, partito da quella storia d'amore assolutamente sfigata e tristissima che però ha fatto sì che io scrivessi le canzoni di questo album, che arrivassero all'orecchio anche di Lucio Dalla, che fosse prodotto da Mauro Malavasi, che ci fosse anche costruito sopra uno spettacolo che ha debuttato l'anno che scorso. Ha debuttato no, quest'anno. No, ma sempre nei 365 giorni. 365 giorni, giusto, a scalare da oggi a ritroso. Debuttata al Teatro Astra di Bellaria, quindi per la prima volta diciamo con uno spettacolo completamente mio in cui ero attrice e cantante, tutto insomma, che non cose è, facili. Che non è Bellaria l'ospedale, è Bellaria. No, no, Bellaria Teatro Astra di Bellaria. La ridente cittadina della Romagna. Dove tra l'altro, approfitto per dirlo, tornerò presto il 27 settembre, sappiatelo, ore 16. È domani. Sì, è tra qualche giorno, perché il film, cioè io ho debuttato anche al cinema quest'anno. Sì, debutto cinema. Infatti la Cristina Fustini, che salutiamo, ti fa i complimenti. Grazie. Per il tuo ruolo né il conte magico. Io sono Dori Giallo. Ah. I registi Diego Schiavo e Marco Melluso diciamo mi amavano come cantante, cantautrice, come essere vivente diciamo, okay. E hanno pensato che fossi giusta per quella parte, come essere vibrante. Essere vibrante, dice Fedra, voi non li sentite, sentite me, e quindi mi hanno chiamato insomma per questa esperienza, che quindi è un cameo cucito addosso alla tua persona. Ma allora, neanche cameo, è un cameo fino a un certo punto che sono la protagonista femminile del film. Ah, vedi, chiamalo cameo. Beh, oggi è venuta per decantare tutte le cose belle, no, tanto le brutte ce le teniamo per noi, qua si dice il bello. E no, sì, è stata un'esperienza molto bella. Tra l'altro questo film ha vinto già diversi premi. E il 27 appunto settembre a ore 16 ci sarà la proiezione al Cinema Astra di Bellaria. Venite, perché anche il pubblico ha un peso sulle votazioni. Quindi bolognesi, amici di Riminesi, gente di Bellaria, ditelo, perché alle 16 al Teatro Astra va il film e si potrà votare il conte magico. Yeah. Hai capito? Come hai detto che ti chiami nel film? Dori nel Giallo. Film sono Dori Giallo e gli artisti, comunque sono sì, gli artisti, i registi hanno detto che loro avevano creato questo personaggio, gli avevano dato il cognome Giallo, ma così. A caso? E poi hanno realizzato che in realtà l'avevano pensato per me. Cioè, quindi hanno detto non possiamo non chiamarla, vedi, anche il nome, abbiamo dato il suo nome. Che soddisfazioni, quindi... che soddisfazioni anche per noi che di cui Roberta Giallo è la madrina di noi due radiofonici, no? Ah, certo, dobbiamo mandarla da Stefano Migliore per Paura in palcoscenico. Ah beh, quello sì, sempre, va bene. Sì. Ma lui non era il di lunedì? Boh, non lo so, anche noi che di l'abbiamo lunedì. Scalzato noi. Non eravamo anche noi di lunedì qualche tempo fa. Basta andare su radiocittafugico.it/palinsesto per capire a che giorno. Chi c'è quando? Fedra ha detto altisonanti e continuano a chiedermi dov'è la Voltolina. Non so se la Voltolina sta lavorando a un proprio podcast. Ah, ecco, vedi. Però. E ce ne verrà a parlare presto. Molto bene. Io sono curiosa di sapere chi sia questa Voltolina. Laura Voltolina è una coxonauta che dal Veneto e dalla città ha fatto l'inviata da Padova e adesso si è trasferita qui in Bologna. Ah, però, quindi l'amore per Radio Fujike e il coxo l'ha portata qua, immagino. Sì, praticamente sì. E quando verrà anche insieme a Kali, che è. Che non è Gali. No, è con la K, mm-hmm. Ed è un coxonauta anche lui. Una coxonauta femmina, di genere molossica. Ah, ok. Che è tenerissima e ululerà per noi in diretta. Ecco. Molto bene. Sempre per quelli che ci ascoltano per la prima volta e non sanno di cosa si occupa il coxo. Però è bello anche, vedi, questo rispiegare a chi ascolta coxo che cos'è coxo. Certo. Coxo si autoracconta. No, effettivamente diranno, boh, ma di che cosa parlate voi? Beh, stasera parliamo di Roberta Giallo, che infatti adesso ci ha fatto un cappello di tutti i debutti, vero? Di cui andremo via via parlando. Esatto, sì, poi non so se ho tralasciato qualcosa, ma no. Diciamo le cose più iconiche le ho dette, no? Poi chiaramente sì. Entreremo nei dettagli. Quindi adesso facciamo così, mandiamo il secondo brano dell'archeologia. Sì, mm-hmm. Che sarebbe? Allora, potrebbe essere 5 schiaffi e una carezza. Beh sì, questo è abbastanza archeologico, comincia a essere un reperto. Ne ascoltiamo un pochino ed entriamo nel vivo dell'argomento. Fai tu, Fede, che io mi fido. L'argomento quindi quale sarà? Questa era la vita dell'artista, nel lato positivo e negativo. Giano Bifronte, mi piace anche questo. Un po' di cultura. 5 schiaffi e una carezza, via. Se non produco denaro, ma mi piace guardare lontano. Che colpa ne ho se il mio non è certo un lavoro che adesso mi rende dell'oro. La colpa che ho non l'ho se mi nutro di spirito, se amo vivere in bilico tra la bellezza e l'amore. Schiaffi o una carezza. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Che colpa ne ho se non riesco a mentire per convincere che vado bene per lavorare. Che colpa ne ho se mi piace spendere il tempo studiando la noia e il tormento e magari scriverci su. Ma nessuno ormai paga più per nutrirsi di spirito. È per questo che vivo in bilico tra la bellezza e l'amarezza. Prendo 5 schiaffi e una carezza. E vivo bene così, solo così. No, non è facile convincere gli altri. Ma se non vivessi così, io morirei rinunciando ad essere me. Rinunciando ad essere me, non lo farei neanche per te. Sono così emozionata che questa cantautrice sia la nostra madrina, che non sta più nella pelle e vado via. Ma io sono troppo lusingata. No, che ogni volta che le riascolto ci scopro sempre un'armonia ancora più ricca e nuova. Insomma, sono sempre attuali, incredibile. Era un po' che non le ascoltavi. E poi dopo c'è anche quello che mi piace tanto, che ce l'abbiamo in clandestinità. Un pezzo clandestino che abbiamo solo noi. Sì, praticamente sì. Però adesso effettivamente io mi sento bella ringalluzzita, perché c'è una cosa che è tornata a dare struttura alla puntata, ovvero la pubblicità delle mezze, la sacra pubblicità della mezza. Wow. Quindi, andando incontro a questo appuntamento, useremo questo. A me invece fa paura un sacco, soprattutto quando non ci sei tu. No, a me emoziona. Uh-huh. Emoziona proprio perché sì, mi dà essere puntuale, spaccare il minuto con questi, facendo la media tra i tre orari diversi che ci sono in questo studio. No, comunque, tornando a noi, quindi questo brano era una sorta di autoritratto della vita dell'artista cantautore, esatto, nel contemporaneo. La parola poi autoritratto, sai, a me è molto cara. Io t'ho conosciuta così, con l'autoritratto dinamico, esatto. Ragazzi, andatevi a cercare su YouTube Roberta Giallo, autoritratto dinamico. Che altro non erano che canzoni estemporanee, come dire, pubblicate al momento in cui io mi autoriprendevo vedendomi. Quindi c'era, come dire, un influenzarsi della propria immagine con quello che andavo facendo, per quello autoritratto dinamico, perché mentre mi autoritrevo con musica e parole avevo l'immagine di me stessa. Ma cioè, questa musica inquietante che abbiamo di sottofondo è sempre Omo Lupi. Oh no, salutiamo Omo Meno Loop e dalla prossima puntata ritornerà anche lui. Okay. Però Cinque Schiaffi e Carezze, esatto, era proprio un autoritratto della vita d'artista. Poi, come tutte le canzoni che in realtà uno scrive per se stesso, c'è un punto in cui, incontrando te stesso, incontri l'altro, no? E infatti mi ho voluto proprio, anche attraverso il videoclip, oggi sai, senza videoclip chi sei? Non sei nessuno, se esce una canzone non c'hai, e quindi ho scelto di voler fare un videoclip in cui, diciamo, riprendevo gli artisti incontrati per strada e anch'io che, diciamo, accompagnavo con loro, ecco, per usare un termine quasi leopardiano. Sì, ho questi, ma io perché ero piccola, più ero quasi letterata, capito? Poi crescendo sono diventata più sporca, più ignorante come tutti. Però ricorda un po' Robbie Yellow. Però pensando, esatto, di questo secolo. Però pensando anche, poi c'è una novità, sai che c'è anche Franga, mia zia, insomma, ma questo se ci sarà tempo. E quindi no, Cinque Schiaffi e una Carezza racconta sì della vita dell'artista, che sai, può essere, può avere, come dire, dei grandi bagliori, ma può avere anche tante ombre. Infatti alle spalle di questi, cioè prima di questi meritati successi, di questi meritati debutti che finalmente sono arrivati, non se ne poteva più. Grazie Fedra, grazie, cioè, un calvario. Grazie destino. C'è stata anche tanta solitudine, sì, credo. Ma la solitudine c'è già nella vita di per sé, cioè noi poi artisti c'è questo vezzo, no? Che uno dice sono un artista, un po' la racconto, un po' se la racconto. No? Quindi nobiliti tutto con la parola artista, anche, anche nella sfida continua che è con la realtà, perché le persone spesso anche non riconoscono la sfiga continua ma anche il fatto che una persona non vuole riconoscere che tu possa fare quello spesso, sì, no? Ma soprattutto che tu possa fare quello e anche altre cose, certo, non a caso molti aspetti della tua creatività sono usciti quasi come rivoli paralleli. Io reagivo alla vita, ecco, diciamo così, perché poi la parola artista, che si può usare o in modo becero, nel senso artista è la parola scritta su tutti i contratti, cioè tu fai una serata, l'artista, poi che sia un artista vero, sia finto, sia grande, l'artista, quindi uso la parola artista in tutte le accezioni possibili, perché per anche brevità auto... chiamato artista, come sì, perché anche autodefinirsi artista a volte suona come pretenziosa, arrogante, lungi da me, cioè io uso la parola artista perché... come la usa la SIAE. Esatto, cioè sei un artista, voglio dire, diffondi dei contenuti artistici, diciamo così, creativi, e quindi rientri lì. No, la solitudine è stata una costante nella mia vita, anche quella nel bene e nel male, perché la solitudine è ciò che serve per creare, per autoconoscersi, per accettarsi, ma è anche qualcosa che a volte è risultato di una non capacità o nostra o altrui di incontrarsi. Quindi ci si sente soli quando non si è capiti, quando può finire male una storia d'amore, quando si litiga con un amico, quando non ci capiscono magari genitori, parenti, amici, quando ci sentiamo incompresi dal mondo, quando non si vuole essere male accompagnati, e anche quando non ci piacciono gli altri, perché poi e puoi sentirti, sentirti solo anche se non fai partire le puntuali le puntate di pubblicità. Io ho la febbre, però la febbre, queste le consegno. Mancano 5 secondi. No, 4, adesso. 2. Comunque la solitudine è importante, basta. Stai così ascoltando Coxo Spaziali. Le ferie sono finite e non è ancora deciso cosa fare a settembre? Ad attenderti ci sono i corsi di Radio Città Fujiko. Speakeraggio, edizione fonetica, ma anche booking e management di gruppi musicali, giornalismo radiofonico e crea e gestisci la tua web radio. Fino al workshop, migliorare la comunicazione nella relazione. Per scoprire l'elenco completo, modalità e scadenza delle iscrizioni, consulta il sito www.radiocittafujiko.it/opportunità. Amo, abbiamo provato al thailandese? Sì. E al boliviano? Ma che boliviano? Io vorrei mangiare romano. Romano. Vorrei una pinza, una carbonara, una cacio e pepe come si deve. E poi porchetta da riccia, coda vaccinara. E allora andiamo alla romana. Non c'entra medicina. Loro non fanno cucina romana. So proprio romani. Guarda su allaromana.it. Oppure cerca la romana su Facebook. Via Saffi 13 a Medicina. Alla romana. C'è stato spazio pure per i pupi. E namo? Quanto sei bella Roma. Quando è sera. Cox spaziale. Stefano, ma che puntata è questa? Questa è la puntata numero 279. E alla 279esima puntata di Cox spaziale, chi l'avrebbe detto che si riconferma il format della... L'angolo della menzione. Incredibile, Gaia Fugazza, Ostaggi e Amici, apre il 27 settembre, che sarebbe, quando è, giovedì o venerdì? Non lo so. Ma non è domenica. Il 27, aspetta che lo diciamo perché non si sa mai. No, il 27 è venerdì. Venerdì. Inaugura a Galleria Più, presenta Ostaggi e Amici, solo show di Gaia Fugazza, Milano 1985. La sua pratica pittorica e performativa è... esplora la relazione tra gli esseri umani e l'ambiente naturale e indaga la natura soprasensibile e gli stati alterati di coscienza. Questo è a Galleria Più in via Fratelli Rosselli. La stessa sera inaugurano anche in Manifattura delle Arti, locale 2, in via Aldo Cardino 12C, va benissimo, con la mostra Mono, di cui non sappiamo nulla, ma invece anche Cardre, sempre in via Alto Gardino 14, e la P420 in via Alto Gardino 9, che sono liete di annunciare, loro fanno una mostra unita, diciamo, all'unisono. Bravi. Una mostra personale di Piero Manai. Tu sai chi era Piero Manai? Me l'hai già nominato in questi 5 anni. Uno degli artisti più straordinari ed enigmatici degli ultimi decenni, prematuramente scomparso nel 1988 all'età di 37 anni. Umberto Eco nel 1991 scriveva che Manai, dopo Giorgio Morandi, stava continuando il discorso della grande pittura bolognese. La mostra, organizzata in collaborazione con gli eredi dell'artista, è dislocata negli spazi della P420 e Car Drde, entrambe in via Alto Gardino, comprende una selezione di opere realizzate da Manai negli anni 80. Mostra da non perdere. Basta, finita la menzione, possiamo andare a casa. Ma no, quando imparerai a fare un po' di redazione dei comunicati stampa? Effettivamente no, oggi non c'era l'elenco dei 25 nomi. Ma io ricordo sempre con gioia, cioè con divertita, che quando arriva il momento della menzione succede sempre qualcosa. Certo. Per cui ci si impappina qualcosa. Si mangia due Pringles. è un po' così. No, è il bello della menzione. Il bello della menzione, esatto. E, bene, allora io a questo punto non ce la faccio più. Forse scardinerò la scaletta, ma devo sentirla perché è troppo tempo che non la sento. Ah, sì? Fuligine. Sei sicura? Devo sentirla, okay. Devo sentirla. E questo sta anche per un po'. Questa è una canzone proprio che arriva così a caso nel mondo, cioè nel senso trasversale a tutto. Amprogettabile. Sì, però okay. parla dell'adesso, credo anche. Parla anche dell'adesso, sì. Sì, sì, e lo parlava già da un paio esatto. d'anni. Parlava l'adesso già da prima. Ma senti, questa è filosofia. Simulazioni proprio. Parla anche dell'adesso. Alla Liga Unui. E ti fanno i complimenti, e ti danno consigli finti, c'è chi spera che ti sbagli. Uè, tanto prima o poi ti spogli. Intelligente ma non troppo, e la scemenza che fa colpo. Ci serve un pezzo bello fresco, non puoi essere depresso. Questa è solo fuligine, ah, fuligine, resta solo fuligine, ah, fare un tatuaggio. Scarrafone o scarrafaggio. Metti pure il parrucchino. Ci vuole un look più sbarazzino. Delicato ma non troppo. Né sfigato né finocchio. Occhio. Fuliggine. Queste sono fuliggine. Bisogno di una mano, perché tu non sei nessuno. Io so quello che ci vuole, io maneggio le pistole. Bang, bang, bang, bang, bang. Questa è la sua strategia, mi ha portato a casa sua. Ha tirato fuori l'arma. Metti qui una bella ferma. Mi labiale, io non sono un cantautore, io posso farti male perché non so cantare. Ehi, ci vuole un po' di graffio, mi sembra un epitafio. Sai che fa successo solo quello che fa schifo. E allora io ti faccio il tifo, ma tu fammi schifo. Fuliggine, queste sono fuliggine. Robiello adesso. Também fala do agora. Do agora? Però bella questa, questa cosina che cambia la voce. Questo lo voglio anch'io, questo, perché tu sei rapido poi, cioè. Eh no, perché praticamente ogni voce c'ha il suo speaker di default, credo. Anche parolas. Sì, alcuni sono un po' metallici. Sì, c'è cosa da fare, registra la sezione e poi la, la, la, la. No. Comunque questo brano che a me piace tantissimo. Io l'ascoltavo da tanto. E più lo ascolto e più mi esalta. Bene. Ma era la sigla di chiusura di un format teatrale. Esatto, anche quello, guarda, quanti spettacoli parlo, ho fatto. Sì, cioè, comincia a essere vecchi evidentemente, perché dico, ma caspita, ho fatto 5, 6, 7, 8, 9, 10 spettacoli, sono tanti. Sì, era un format che avevamo creato, che io, c'è stata una fase della mia vita in cui io ho voluto dirigere delle cose. Una rassegna al Bravo Caffè sui cantautori, mi sono sbattuta a selezionare. Sei direttrice. Sì, volevo dirigere, volevo dirigere la baracca. E poi mi era venuto in mente di fare questo spettacolo, The Dark Side of the Music. Uh-huh. E poi anche qua, questo Dark Side è ritornato, beh, io chiaramente mi ero rifatta ai Pink Floyd, no? Però per dire che c'era urlato appunto marcio della musica con cui bisogna convivere con tranquillità, con serenità, perché tanto il marcio c'è sempre nella vita, un po' come la spazzatura anche su. Ma infatti questa voce maschile aveva anche un nome di scena che era Topo Marcio, dico bene? E lui adesso no, forse Squalo Marcio. Sì, diciamo che era uno spettacolo teatrale aperto, perché ogni volta c'erano dei nuovi ospiti. Uh-huh. E si ridicolizzava un po' il mondo della musica, ma ti dico, con quella sana leggerezza e sana ironia o autoironia, per cui rifacevamo anche dei video in cui facevamo dei personaggi stile talent show, e noi eravamo i giudici, insomma era uno spettacolo che ha avuto anche una sua storia. Sono stati credo un ciclo di 4 spettacoli con ospiti ogni volta diversi e abbiamo riso tanto, guarda, questo sì. E Fuliggine era proprio la sigla che avevamo creato, la canzone sigla, che infatti poi faceva parte dello spettacolo, e credo che pubblicamente Radio Fujiko sia l'unica radio alla quale abbiamo consentito di passarla. Wow. Hai capito? Io quindi, sono emozionata, io ringrazio tanto. Quindi dovete ascoltare Radio Fujiko anche da casa se volete ascoltarla, perché questa è una prelibatezza. E potete riascoltarla su www.coxospaziale.blogspot.com. Esatto. Dove troverete anche le menzioni rieditate, vero? Ma neanche. Una copia e incolla e via. Copia e incolla e via. Sì, perché da domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Ah, cavolo, sai che però faccio fatica dal lunedì al martedì. Allora, da mercoledì. Giovedì. Mercoledì l'avete mai sentito dire? Mercoledì. Ho sentito dire qualche volta. Lo dice spesso. Bellissimo mercoledì. Io l'ho sempre solo sentito dire da Fedra. Ma noi non lo dico spesso. No, esatto. No, speriamo. Anche perché se dice spesso. Appunto. No. Sì, comunque sì, prima o poi succederà. Che cosa? Che se andate su www.coxo.com sentirete merdoledì. Potrete riascoltare Fedra che dice merdoledì. C'è anche la vocina poi volendo, vero? Che no. Come lo dice Google? Ma dunque, cioè, perché di solito succede che quando qualcuno vuole dirigere qualcosa, dopo si monta la testa e vuole dirigere anche tutto il resto. No, mentre invece no. Tu hai deciso che non era il tuo. No, allora guarda, no, allora, secondo me è la vita che decide per te, cioè la cosa che poi è più nelle tue corde, ti possiede, no? Quindi io mi sono molto esaltata nel farlo, però non è che vuol dire fare direttore solo bello, perché poi in giro diranno è lei che ha fatto la cosa, è quella lì che ha fatto questo, no, male. Diventa anche un impegno, certo, però si telefonano tutto, esatto, il giorno, e poiché fortunatamente il dramma del nostro tempo è quello del direttore, quando dirigi qualcosa ti telefonano, esatto, tutti continuamente. Una volta c'era solo il telefono fisso, ma poi anche il fatto che io poi amo fare le cose in modo preciso, quindi non ce la faccio neanche poi a non fregarmene di chi magari, certo, ti scrive e non rispondi, ci può rimanere male, cosa che succede comunque sempre, perché tanto. E quindi no, a un certo punto semplicemente ho dovuto dedicarmi tanto, per fortuna voglio dire, anche diciamo così, ai miei impegni di cantautrice in primis, a quali poi hanno la precedenza su tutto per varie ragioni, e quindi dico no, sarebbe bello organizzarlo, però è molto impegnativo, quindi per quest'anno onestamente non mi ci metto. E così come altre esperienze di cose che, come anche lo spettacolo The Dark Side of the Music, poi al di là del fatto che ogni cosa ha anche un suo ciclo, cioè chiaramente il ciclo dipende anche dal nostro entusiasmo, dal periodo, dagli impegni, e poi ripeto anche dal fatto che poi la me cantautrice ci sono tante me, no? Io godo di una schizofrenia probabilmente multicolore, essendo impegnata quella me, non potevo star dietro a ciò, che però mi ha divertito tanto, è stato molto bello. E comunque il palcoscenico è una costante, a parte come prestatrice di voce in vari spettacoli di personaggi più o meno noti che ti portano in giro per palcoscenici in Italia e in Europa, ma ci sono anche frequentazioni attive da coautoriali, a parte lo spettacolo che ha debuttato dall'oscurità di Guillaume l'anno scorso, ma anche una partecipazione continua e collaborazioni con personaggi che alla tua stregua sono eclettici e creativi. E sto pensando ad una Clelia Sedda, per esempio. Certo, infatti qui siamo in zona bolognese, sappiate che a novembre vi aspettiamo, non ricordo la data esatta, nel frattempo la cerco, per l'ennesima giornata dell'Error Day. E noi coxici faremo di tutto per averle qui ospite il lunedì precedente. Noi siamo i paladini dell'Error Day. Io sì, ecco, in particolare. Sabato, addirittura 2 novembre potrebbe essere il giorno dei morti. Ricordavi il 3, invece quello sarà il 2. Giorno dei morti ci può stare. Ci sta da Dio. Ci sta, l'oratorio San Filippo Neri, mi pare. Tra l'altro sarò all'oratorio San Filippo Neri anche il 19 ottobre, segnate. Concerto? Un evento particolare, siccome diciamo così, istituzionalmente non hanno detto che cosa ci sarà. Sappiate che sarà un appuntamento molto importante, ma poiché non hanno rivelato loro, insomma, queste entità oscure, io posso dirvi che ci sarò, ma non voglio svelare il titolo della cosa. Non si sa ci saranno perché, anche ma ci ospiti sarai. Illustri. E quindi ma ci si prenota, si compra il biglietto. Allora, l'oratorio San Filippo Neri, sapete, è questo luogo meraviglioso in cui prima si arriva e più si ha la possibilità di entrare quando ci sono questi eventi, perché è sempre pienissimo. Ok. E quindi è gratis, sicuramente credo sia gratis, però credo ci sia un modo di prenotare almeno due Ave Maria, però le devi è sconsacrato ormai. Scusate, non me ne ho accorto. Anche perché vi posso dire senza svelare che canterò lì una canzone che in qualche modo è collegata anche proprio all'essere blasfemi. Ah, fantastico. E quindi infatti pensavo a questa cosa. Stavo per dire, sì, no, allora vengo. Me lo segno già. No, sarà un appuntamento veramente molto bello. E però bisogna arrivare un po' prima per riuscire ad entrare. Hai detto il 17 poi novembre? Poi se vi interessa ditemelo, 19, che io posso però, eventualmente segnalare. Cioè, prima, se non sappiamo a che ora è, come facciamo? No, facciamo così, ci teniamo un appunto che il lunedì precedente la tartassiamo per avere almeno una telefonica. Anche dei magari delle entrate delle entrate gratuite che sono già gratuite. No, però siccome è così pieno, riuscite ad entrare di sicuro. VIP pass. Posti riservati, insomma. Yeppa. Noi siamo i figlini, perché tu sei la madrina, quindi noi siamo i figlini. Ma voglio anche dire che poi ottobre è un mese carico, adesso vedi, prendo le redini. Prendile. Perché sarò il 3 ottobre terrò una masterclass. Adesso non, dove? Questo non ve lo po' di canto, perché ogni tanto mi chiamano per dare qualche... 3 ottobre inaugura anche Cesare Pietro Iusti al Mambo, ma lo diremo la settimana prossima. Va bene. Magari veniamo poi. Masterclass, sì. Dove? Allora, la cosa curiosa è che vi rimando alle mie pagine Facebook, sinceramente, perché io poi, appunto, la me, come dire, più professorale, non è che la sponsorizzo più di tanto. Quando mi chiamano per vado, perché dico, vabbè, se ho qualcosa da poter elargire come esperienza, no? Come cantante lo faccio volentieri. Non è la mia prima attività, però segnate invece il 5 ottobre presenterò, stavolta nelle vesti di presentatrice, la serata del May. Cioè, hai tutti i sabati impegnati. Ma intanto il weekend per me è uguale a lunedì, non è che ho fatto mai la vita, capito, la balotta del sabato e la domenica. Comunque il 4 è San Petronio ed è festa, non so se tu... Interessante, il 5 invece dicevi... Sarò a Faenza, presenterò il premio dei premi insieme a Rico De Regibus, serio, come dire, scrittore musicale e altro. In questa serata saranno premiati tanti divi e dive della musica italiana, quindi consegneremo trofei, non so, a Cristina Donà e adesso mi sfugge il nome dell'altra grande cantante, ma lo recupero dopo, tra l'altro vincitrice anche di Targhetenco. Ci sarà Riccardo Sinigallia, sarà premiato anche Giovanni Truppi. Cristina Donà, perfetti, insieme a Ginevra Cristina Di Marco. Donà. Oh, Ginevra Di Marco, esatto. La conosco anch'io. Le premieremo. e poi ci sarà, ecco perché io presento il premio dei premi, diciamo perché. Perché sei la... No, perché nel 2017, l'anno in cui partecipai a tutti i premi possibili immaginabili, vincendone anche due o tre, esatto, ne ho vinti diversi, vinsi il premio dei premi. Cioè, ovvero, che cos'è il premio dei premi? Cos'è? Dice al premio dei premi partecipano tutti i vincitori dei premi più importanti d'autori italiani, quindi chi ha vinto il premio di Andrea, andai lì come vincitrice del premio Bindi e tra tutti i vincitori ho vinto. Hai vinto il premio dei premi. Ecco perché si chiama così. E quindi tu, visto che l'hai vinto, e da allora però come madrina sono la madrina del premio dei premi. Anche la madrina? Certo. Ma che bello. Ecco perché non posso far figli, perché sono già madrina di tutti questi premi da gestire. E allora me vogliono, pare, insomma, ho presentato anche l'anno scorso e quindi ritorno volentieri. E mi sembra ottimo. No, sono molto contenta. Sarà una serata, tra l'altro, impegnativa, perché c'è da premiare veramente un sacco di gente. In più ci saranno appunto i vari vincitori di quest'anno di tutti i maggiori premi dedicati a cantautori italiani. E poi ci sarà il 19 appunto ottobre San Filippo Neri. Poi attenzione, così chiudo con gli impegni di ottobre. Mm-hmm. Il 27 ottobre. Dopo devi tornare in ottobre per quelli di novembre. Certo. Il 27 ottobre sarò, questo è importante, al Barezzi Road, Barezzi Festival, Teatro Giuseppe Verdi di Busseto. Ci sarò io, ci saranno i Delta V, ci sarà Emma Morton and the Graces, ci sarà Ferdinando, e sarà una serata in cui, in questo meraviglioso teatro che è il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, ognuno presenterà la propria musica, ma anche una rivisitazione di un brano verdiano. E quindi sarà una serata molto bella, perché ci divideremo il palco con questi artisti, e so che il Barezzi Festival è una realtà molto molto bella, molto seguita, e quindi siamo tutti elettrizzati, chiaramente. Quindi prepariamoci, perché noi del Coxo daremo la caccia telefonica alla nostra madrina per tutto il mese di ottobre. Ma sì, ma io quando ci sono vengo volentieri qua. Anche per telefono. Anche per un caffè, che non bevo con te, due patatine. Famo un decaffeinato. Vi porto qualcuno, qualche artista. Sì, volentierissimo. Allora, intanto sì, te ne suggerisco un po'. Intanto facciamo animale? Animale. Sì, animale ci piace. Sì, animale ci sta. L'anima è un animale e se ne sta al di là del bene e del male. La ritorno ad ascoltare, perché lei sa più della mia ragione. So ed ecco che i minuti scorrono e viaggiano veloci come la luce. No, sono io, chiedo scusa agli ascoltatori non coccici, chiedo scusa alla nostra ospitessa, chiedo scusa financo a te Pasquini, ma così giù di energia come questo raffreddore non ci sono mai stata. Ma guarda, non è vabbè, vero, dobbiamo Fede. Inaugurare bene la prossima volta il nuovo anno, come si chiama, l'anno radiofonico. Sì, cioè, non è un anno accademico, è radiofonico, però comincia in ottobre. No, io comunque avrei delle domande per la nostra ospite. Ma intanto sono qua, guarda, pronta. Sarà meglio. Io volevo chiedere, ogni brano uno squarcio di mondo diverso, anche la voce che è la tua si riconosce ma tira fuori dei timbri diversi. Com'è possibile? Ma guarda, io è un osmosi con la canzone e con l'arrangiamento ogni volta. Credo che la voce non debba mai confliggere con l'arrangiamento, ma entrare in perfetta sintonia. Quindi è come un po' un accordarsi con il tappeto che hai sotto. E poi è anche vero che, come nella vita, a volte si parla più forte, a volte si grida, a volte si ha poca voce perché si è stanchi, qualche volta si è tristi, e quindi la voce, appunto, io amo definirmi anche un po' una cantautrice, mi ci definisco io, molto colorata, perché mi piace trasporre nella musica un po' le sfumature e i colori della vita, e così anche la voce chiaramente è una voce mutante. Mi hai convinta. Cioè so grazie. Io, ma so diversa. Ma con i varianti, capito com'è la cosa? Per capirci. Tipo una voce mutante. Anche. Perché comunque se tu sei mutante, la tua voce cambia. Ah, le sì. Mutande vanno certo. Giù. Amando Lucio, bisogna citarlo. La felicità, questa no? Dice. Cioè, quando sei nudo, comunque al telefono parli in modo diverso. Certo, anche in base alle persone con cui parli. A volte certo. non è naturale, ma ti imposti, magari pronto. Oppure sei l'amico tuo, però. Cioè, oppure c'hai quelli che hanno il fidanzato che magari fanno la vocina piccolina. Sì. Oppure così. Esatto. Vedo che Fedra l'occhio si fa cuore. Esatto. Perché ci si è rivista forse, chissà perché. No, allora devo salutare la colonia di Rigger che in trasferta da Torino a Milano si prepara a partire per l'Arabia Saudita. Ah, che Arabia Saudita. E dunque come farai? Per tutto questo, per quanto tempo stanno WhatsApp, via? Sacro WhatsApp. Meglio Telegram comunque. Ma 333-180-94-94 se volete. Anche su Telegram. Telegrammare. No, non so se c'è Telegram. Codesta radio. Ma sai che con Telegram ho un problema di notifiche? Mm-hmm. Cioè, lo uso solo perché ci sono due persone che ce l'hanno e non hanno nessun'altra cosa. Però io sono un promotore di WeChat invece, che si può usare. Oppure un altro. Usa tutte cose, vedi? Certo. Usa tutte cose più. È uno che va col PC. Le perché robe anche col PC. Telegram, cioè io ce l'ho ma non lo uso mai. Telegram. A me le notifiche non me le fa, cioè quella volta che mi scrive sta persona la notifica mi appare 3 settimane dopo. Ma allora spiegaci la differenza. Scusate, faccio le domande. Spiegaci la differenza tra io lo so. Allora, io Telegram lo so. E WhatsApp. Io lo so. Allora, WhatsApp lo so. Ti intasa il telefono perché tutto quello che ti arriva rimane nel tuo telefono, mentre invece Telegram lo tiene sul server criptato, e quando tu lo vuoi rivedere lui te lo fa rivedere, lo devi semplicemente riscaricare tenendoti il telefono leggerissimo. Ma non aveva WeChat anche delle legge sulla privacy più anche in Cina? WeChat no, mentre invece gli altri sono questo è molto interessante. Certo. Perché ci stiamo preparando per la Cina, no? Ma in realtà tu per l'estremissimo oriente punto. Io come sapete ormai punto al Giappone e la Cina, perché sono quando è che vai in Giappone, che quell'anno prossimo ci vado anch'io. Dico quello. Attenzione. Ci punto nel senso chiamatemi. Ok. Cioè, mentre nell'Asia l'ho frequentata abbastanza, insomma dobbiamo mandare qualche piccione Giappone viaggiatore. Dobbiamo mandare degli input. Perché certo. Secondo me il Giappone, anche la mia musica, cioè mi ci vedo io. Anch'io. Vabbè, ci vedo vabbè, scusami. A parte che acquisterei un sacco e se poi di non sei tu anime. Sarà Cliscia Bobo Viva Mago. Hai capito? Bravo, hai dato che sta risorgendo un pochino la povera Cliscia. No, perché io la prima volta che l'ho vista era insieme a te, Stefano, ed eravamo ad Arte Fiera. E lei si chiamava Cliscia Bobo Pigamago. Certo. Ed era quella sorta di cosplayer, esatto. Completamente vestita di rosa. Che è anche intervenuta nella piattaforma di Elia Media. Ah, tu non lo sai cosa ho fatto io, adesso te lo dico, lui che è esperto. Io ho deciso di andare a Arte Fiera completamente così, senza l'appoggio di niente, sì. e fare una cosa che poi hanno fatto 10 anni dopo al Louvre, interagire con le opere, ma senza averlo organizzato. Quindi ho cominciato a interagire con le opere vestita da cliscia, finché di fronte a una scritta Freedom che c'era, mi è sembrato giusto è sentirmi libera. Quindi ho cominciato a fare gli animali, a rotolarmi per terra. Poi mi ha fermato la polizia. Meraviglioso. La polizia. Però di rimane, c'è anche il video, ci sono su YouTube, cliscia arte fiera. Dobbiamo andarla a vedere. Lo linkiamo con la puntata di oggi, perciò da dopodomani o quando sarà su www.caccospaziale.blogspot.com troverete anche il video di cliscia arrestata dalla polizia di arte fiera. Esatto. E intanto noi ci salutiamo perché... Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Così. Allora io metto il nastrone. Metti un nastrone, che forse parte la pubblicità adesso. Sì. Con ciao. Ciao. Le ferie...